Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Lucy non era una teologa, ma ebbe l'impressione di trovarsi in presenza di un vecchio assai sciocco, nonché assai irreligioso. Ebbe anche l'impressione che sua madre sarebbe stata probabilmente scontenta se l'avesse saputa impegnata in un dialogo con un personaggio del genere e che Charlotte avrebbe mosso le più energiche rimostranze. «Che cosa ne facciamo di mio figlio?» continuò il signor Emerson. «Viene a passare le vacanze in Italia e si conduce così, come quel bimbo che avrebbe dovuto star giocando e invece si è ferito cadendo su una tomba. Eh? Cosa ha detto?» Lucy non aveva aperto bocca. Il vecchio saltò su all'improvviso. «Via, non sia ottosa, non mi fraintenda. Non ho la pretesa che si innamori del mio ragazzo, ma credo fermamente che potrebbe cercare di capirlo. Lei gli è vicina per età e se appena si lasciasse andare sono sicuro che non le mancherebbe il buon senso. Potrebbe aiutarmi. George ha conosciuto così poche donne e lei ha tempo a sufficienza. Rimarrà a Firenze per molte settimane, non è vero? Ma si lascia andare. Se posso giudicare da iersera, è portata a confondere le sue idee, si lascia andare. Strappi fuori dal profondo di sé quei pensieri che non capisce e li sparpaglia alla luce del sole e ne intende il significato. Conoscendo George, chissà che non impari a conoscere se stessa. Sarà bene per tutti e due». A questo straordinario discorso Lucy non seppe trovare risposta. «Io so solo qual è il suo male, non perché lui ne soffre». «E sarebbe?» domandò Lucy intimorita, aspettandosi un racconto straziante. «Il solito guaio. Le cose non quadrano». «Quali cose?» «Le cose dell'universo. È verissimo. Non quadrano». «Oh, signor Emerson, che vuol dir mai?» Con la sua voce normale, tanto che Lucy quasi non si accorse che stava citando dei versi, il vecchio disse: «Da lungi, da sera e mattina, dal cielo dei 12 venti, lo stame di vita per tessermi fin qui veleggiò, e io sono». «George e io lo sappiamo entrambi, ma lui, perché se ne angustia così? Sappiamo che venimmo dai venti e che ai venti ritorneremo, che tutta la vita è forse un nodo, un intrico, una macchia sulla piana distesa dell'Eterno. Ma perché questo dovrebbe renderci infelici? Amiamoci piuttosto l'un l'altro e lavoriamo e allietiamoci. Io non credo in questo mondo di dolore». La signorina Honeychurch assentì. «Persuada dunque mio figlio a pensare come noi. Lo persuada a capire che accanto al perpetuo perché esiste un sì transitorio, se vogliamo, ma sempre un sì». All'improvviso Lucy uscì in una risata. C'era sicuramente di che ridere. Un giovane malinconico perché il mondo non voleva quadrare, perché la vita era un intrico o un vento o un sì o chissà cosa. «Le faccio tutte le mie scuse», esclamò. «Lei mi giudicherà insensibile, ma...» Poi assunse un tono matronale. «Ma suo figlio ha bisogno di occuparsi. Non ha qualche interesse particolare, diamine, ho anch'io i miei fastidi, però in genere riesco a dimenticarli al pianoforte. E far collezione di francobolli giovò enormemente a mio fratello. Forse l'Italia gli è venuta a noia. Lei dovrebbe provare a condurlo sulle Alpi o sui laghi». La faccia del vecchio si rattristò e la sua mano si posò leggermente sul braccio di Lucy. Il gesto non la impaurì. Si disse che era rimasto colpito dal consiglio e che intendeva ringraziarla d'averglielo dato. Anzi, lo stesso signor Emerson non la impauriva più nemmeno un po'. Lo considerava un buon diavolo, ma sciocco quanto mai. Si sentì presa da un'esaltazione spirituale. Come un'ora prima, quando non aveva ancora perso il Baedeker, si era sentita presa da un'esaltazione estetica. Il caro George, che in quel momento marciava verso di loro calpestando le pietre tombali, le parve pietoso e insieme assurdo. Ecco che si avvicinava con la faccia velata dall'ombra e disse: Arriva la signorina Bartlett. Misericordia! Esclamò Lucy, crollando repentinamente dall'alto e scorgendo di nuovo la vita intera in una prospettiva diversa. Dov'è? Dov'è? Nella navata. Capisco. Quelle vecchie pettegole delle signorine Alan devono avere... Si interruppe di botto. Povera ragazza! Esplose il signor Emerson. Povera ragazza! Questa poi Lucy non poteva passargliela, perché era proprio l'effetto che faceva a se stessa. Povera ragazza! Il senso della sua definizione mi sfugge. Le garantisco che mi ritengo una ragazza fortunatissima, sono al colmo della felicità e mi diverto pazzamente. La prego, quindi, di non sprecare il suo tempo a compatirmi. C'è abbastanza dolore nel mondo, non le sembra? Anche senza che cerchiamo di inventarlo. Arrivederci. Vi ringrazio tutti e due per la vostra gentilezza. Ah, sì, ecco che arriva mia cugina. È stata una mattinata incantevole. Santa Croce è una chiesa stupenda. E andò incontro alla signorina Bartlett. Lucy, che trovava la vita quotidiana alquanto caotica, aveva la facoltà di penetrare in un mondo più solido quando apriva il pianoforte. Allora non era più deferente né presuntuosa, non era più una ribelle né una schiava. Il regno della musica non è il regno di questo mondo. È pronto ad accogliere coloro che sono stati indistintamente respinti dalla raffinatezza e dall'intelletto e dalla cultura. Lucy non era un'esecutrice mirabolante. I suoi arpeggi non sembravano davvero fili di perle e le sue note giuste non erano più numerose di quanto fosse lecito aspettarsi da una personcina della sua età e condizione, e non era neanche la giovanetta passionale che suona così tragicamente nelle sere d'estate con le finestre aperte. C'era sì la passione, ma non riusciva facile delimitarla. Guizzava infatti in mezzo all'amore e all'odio e alla gelosia e a tutto l'arredo degli effetti pittorici. E Lucy era tragica solo nel senso che era grande, giacché amava suonare per la causa della vittoria. Vittoria di che e su che cosa, questo è più di quanto saprebbero dircelo le parole della vita quotidiana. Ma che alcune sonate di Beethoven siano concepite in senso tragico, nessuno può negarlo. E non di meno possono trionfare o disperare a seconda di come decide l'interprete. E Lucy aveva deciso che dovessero trionfare. Un pomeriggio di pioggia ostinata le permise di dedicarsi all'attività che le era realmente congeniale nella pensione Bertolini. E dopo colazione aprì il pianoforte verticale, coperto d'un drappo a fiorami. Un gruppetto si trattenne nel salotto e lodò la sua esecuzione, ma siccome lei non rispondeva, si disperse e ciascuno si ritirò nella propria stanza per aggiornare il diario o per fare la siesta. Lucy non si accorse del signor Emerson che cercava suo figlio, né della signorina Bartlett che cercava la signorina Lavish, né della signorina Lavish che cercava il suo portasigarette. Come tutti i veri musicisti, bastava inebriarla la mera sensazione dei tasti. Erano dita che accarezzavano le sue, e mediante il tatto, non il suono soltanto, giungeva ad attuare il suo desiderio. Il signor Bibb, che sedeva inosservato sotto la finestra, meditava su questa illogica componente della signorina Honeychurch e rievocò la circostanza in cui l'aveva scoperta a Tunbridge Wells. Era successo durante una di quelle festicciole che l'alta borghesia offre alle classi inferiori. Un pubblico rispettoso gremiva la sala e le signore e i signori della parrocchia, sotto gli auspici del loro vicario, cantarono o recitarono o imitarono lo schiocco del tappo d'una bottiglia di champagne. Fra i numeri promessi dal programma figurava signorina Honeychurch, pianoforte, Beethoven. E il signor Bibb stava domandandosi se avrebbe ascoltato Adelaide o la marcia dalle rovine di Atene, quando la sua serenità venne turbata dalle prime battute dell'opera 111. Rimase in sospeso durante tutta l'introduzione, perché non si capisce mai cosa abbia in mente l'interprete finché non si accelera il ritmo. Dal ruggito del tema iniziale egli comprese che la faccenda si metteva per una via straordinaria. e negli accordi che preannunziano la conclusione udì il martellio della vittoria. Il pubblico applaudì, non meno rispettoso di come era stato in precedenza. Fu il signor Bibb a prendere l'iniziativa di pestare i piedi. Non era possibile fare altro. «Chi è?» domandò in seguito al vicario. «La cugina d'una mia parrocchiana. Non ritengo felice la scelta del suo numero. Di solito Beethoven è così semplice e immediato nel proprio messaggio che mi pare indizio di pura tracotanza scegliere un pezzo simile, il cui effetto è, a dir poco, conturbante. Presentami. La ragazza sarà ben lieta di conoscerti. Lei e la signorina Bartlett non la finiscono più di decantare il tuo sermone». «Il mio sermone?» gridò il signor Bibb. «Che bisogno aveva di ascoltarlo?» Avvenuta la presentazione, il signor Bibb trovò risposta alla domanda, poiché la signorina Honeychurch, una volta staccata dallo sgabello del pianoforte, altro non era che una giovanetta con un profluvio di capelli neri e un visetto graziosissimo, pallido, dai lineamenti non del tutto formati. Era entusiasta dei concerti, era entusiasta del suo soggiorno presso la cugina, era entusiasta delle granite di caffè e delle meringhe. Il signor Bibb non dubitò più che fosse stata anche entusiasta del suo sermone, ma prima di partire da Tunbridge Wells fece al vicario un'osservazione che ora ripeté a Lucy in persona, quando, dopo aver chiuso il piccolo pianoforte, si diresse con aria trasognata verso di lui. «Se un giorno la signorina Honeychurch si metterà a vivere come suona, sarà un fenomeno davvero eccitante, sia per noi che per lei». Lucy rientrò immediatamente nella vita quotidiana. Come buffo. Qualcuno disse esattamente la stessa cosa alla mamma, e lei rispose: «Spero che mia figlia non vivrà mai un duetto». «La signora Honeychurch non ama la musica?» «Lei è indifferente, ma non può soffrire che ci si ecciti per nessun motivo. Secondo lei io sono esageratamente infatuata della musica. Secondo lei... ma non so proprio. Una volta, pensi, dissi che preferivo il mio modo di suonare a quello di chiunque altro. Questo la mamma non l'ha mai mandata giù. Naturalmente non intendevo dire che suono bene, intendevo dire soltanto... Naturalmente», interruppe il signor Bibb, chiedendosi perché Lucy volesse darsi la briga di spiegarglielo. «La musica», proseguì Lucy, quasi si proponesse di enunciare una generalizzazione. Non riuscì a completare la frase e girò distrattamente lo sguardo fuori della finestra, sull'Italia intrisa di pioggia. La vita intera del sud era sconvolta e la nazione più amena d'Europa si era trasformata in un'informe congerie di indumenti. La strada e il fiume erano d'un giallo sporco, il ponte d'un grigio sporco e le colline d'un purpureo sporco. Lassù, in una conca, si acquattavano le signorine Levish e Bartlett, che avevano scelto quel pomeriggio per visitare la Torre del Gallo. «Sicché?» «La musica?» domandò il signor Bibb. «La povera Charlotte sarà inzuppata dalla testa ai piedi», fu la risposta di Lucy. La spedizione era tipica della signorina Bartlett, che sarebbe ritornata infreddolita, sfinita, famedica e angelica, con una gonna rovinata, un bedè che rimpoltiglia e una tosse stizzosa. «È vero che la signorina Levish sta scrivendo un libro?» continuò Lucy in tono riverente. «Si dice. Qual è il soggetto?» «Sarà un romanzo ambientato nell'Italia odierna», rispose il signor Bibb. «Per ulteriori schiarimenti le consiglio di rivolgersi alla signorina Catherine Alan, che adopera magistralmente le parole, meglio d'ogni altra persona di mia conoscenza. Preferirei che me li desse direttamente la signorina Levish. Da principio eravamo grandi amiche, ma mi pare che l'altra mattina a Santa Croce non avrebbe dovuto scappare via col Bedecker. Charlotte si è arrabbiata moltissimo quando mi ha trovata sola, o quasi, e perciò non ho potuto fare a meno di arrabbiarmi un po' anch'io con la signorina Levish. Comunque... loro si sono riconciliate». Al signor Bibb interessava quell'amicizia subitanea fra due donne apparentemente tanto dissimili. Le signorine Levish e Bartlett ricercavano sempre la reciproca compagnia e Lucy fungeva da terzo incomodo. La prima, lui credeva di capirla, ma la signorina Bartlett poteva rivelare ignoti abissi di stranezza, se non di significato, forse. Per la terza volta Lucy disse che la povera Charlotte sarebbe tornata tutta fradicia. L'Arno era in piena. stava già cancellando i solchi dei carretti sul greto, ma a sud-ovest erano apparsi opachi vapori gialli che potevano essere forieri di tempo migliore, quando invece non lo fossero d'un peggioramento. Lucy aprì la finestra per indagare, e una fredda raffica irruppe nel salotto strappando un gemito alla signorina Catherine Alan, che vi stava entrando in quell'attimo stesso dalla porta. «Oh, cara signorina Honeychurch, ma lei si prenderà un malanno! E il signor Bibb se lo prenderà anche lui. Chi mai crederebbe che questa è l'Italia? Mia sorella sta addirittura abbracciata alla borsa dell'acqua calda. Qui non ci sono comodità né precauzioni adeguate contro il freddo». La signorina Alan avanzò verso di loro a passetti di sghembo e si mise a sedere dimenandosi per l'imbarazzo, come sempre faceva, quando entrava in una stanza che conteneva un uomo solo, o un uomo e una donna. Malgrado la propria soddisfazione, la signorina Alan continuò a dimenarsi e alla fine si palesò il motivo di tanta irrequietezza, poiché estrasse dal di sotto della sua sedia un portasigarette di bronzo sul quale erano state applicate le iniziali E.L. in lustrini color turchese. «Questo oggetto appartiene a Levish», disse il reverendo Bibb. «È un buon diavolo il nostro Levish, ma preferirei che si desse alla pipa». «Oh, signor Bibb!» esclamò la signorina Alan, combattuta fra lo sgomento e l'ilarità. «Benché il fatto che fumi sia orribile, non è precisamente orribile come lei crede. La signorina Levish prese il vizio, potremmo dire per disperazione, dopo che tutto il lavoro della sua vita fu travolto da una frana. Certo che una simile disgrazia lo rende più scusabile». «Cos'era quel lavoro?» domandò Lucy. Il signor Bibb si appoggiò allo schienale della sedia con aria compiaciuta e la signorina Alan cominciò come segue. «Era un romanzo e, a quanto ho potuto capire, temo che fosse un po' troppo spinto. È così triste quando coloro che posseggono delle doti ne usano a fini discutibili e devo dire che lo fanno il più delle volte. Comunque, la signorina Levish lasciò il manoscritto quasi finito nella grotta del Calvario dell'albergo dei Cappuccini ad Amalfi per andare a procurarsi dell'inchiostro. «Posso avere un po' d'inchiostro, per favore?» disse. «Ma lei sa come sono questi italiani, cosicché nel frattempo la grotta crollò con un boato sulla spiaggia. E la conseguenza più triste di tutte è che la poveretta non riesce più a ricordare quello che aveva scritto». Stette malissimo in seguito e perciò cedé alla tentazione delle sigarette. È un gran segreto, ma sono lieta di poter dire che sta scrivendo un nuovo romanzo. Giorni fa ha confidato a Teresa e alla signorina Paul che aveva già pronto tutto il colore locale. Questo romanzo tratterà dell'Italia moderna, l'altro era storico, ma che non può cominciarlo finché non le viene un'idea. Prima aveva cercato l'ispirazione a Perugia, poi capitò qui, questo però deve restare strettamente fra noi, e se l'è presa con tanta filosofia, non posso fare a meno di pensare che c'è sempre un lato ammirevole in ciascuno di noi, perfino in chi non riscuote la nostra approvazione». La signorina Alan era sempre caritatevole, anche quando glielo consigliava la ragione. Un pathos delicato profumava i suoi discorsi scuciti, conferendovi una bellezza inattesa, proprio come a volte dai boschi autunnali marcescenti si levano certe fragranze che ricordano la primavera. «Signor Bibb, il vecchio Emerson è o non è un brav'uomo?» chiese a quel punto Lucy. «Ci terrei tanto a saperlo». Il signor Bibb rise e le propose di risolvere il dilemma per conto proprio. «No, è troppo difficile. Certe volte lo trovo così sciocco e allora non è affatto di mio gusto. Signorina Alan, cosa ne pensa? È un brav'uomo quello, secondo lei?» La vecchietta scosse la testa emettendo un sospiro di disapprovazione. Il signor Bibb, che si divertiva ad ascoltare i loro discorsi, la stuzzicò dicendo: «Signorina Alan, penso che lei debba per forza considerarlo un brav'uomo, dopo quella tal faccenda delle violette». «Le violette? Oh, santo cielo! Chi mai le ha parlato delle violette? Come fanno presto circolare le voci? Le pensioni sono deplorevoli focolai di pettegolezzi, no? Non posso dimenticare come si sono comportati quei due a Santa Croce durante il discorso del signor Eager. Oh, povera signorina Honeychurch, è stato davvero troppo increscioso. No, ho cambiato radicalmente opinione. Gli Emerson non mi piacciono. Non sono brava gente». Il signor Bibb sorrise con noncuranza. Aveva compiuto un modico sforzo per cercare di introdurre gli Emerson nella cerchia della pensione Bertolini, e l'esperimento era fallito. Lui era quasi il solo a mantenere rapporti amichevoli con loro. La signorina Levish, che rappresentava l'intelletto, era apertamente ostile, e adesso le signorine Alan, che rappresentavano la buona educazione, seguivano il suo esempio, e non c'era da aspettarsi che li trattasse civilmente la signorina Bartlett, cui bruciava ancora il debito di gratitudine. Il caso di Lucy era diverso. Lucy gli aveva fornito una descrizione nebulosa delle proprie vicissitudini in Santa Croce, e lui ne aveva dedotto che i due uomini avessero fatto un curioso tentativo, possibilmente concertato in precedenza, di accaparrarsi la ragazza, di mostrarle il mondo dal loro bizzarro punto di vista, di interessarla ai loro dolori e alle loro gioie personali. Questa era petulanza bella e buona. Il signor Bibb non ammetteva che una giovanetta si facesse paladina della loro causa. Preferiva che la causa andasse all'aria. Dopotutto non sapeva nulla sul conto degli Emerson e le gioie di una pensione, i dolori di una pensione. Sono cose inconsistenti. Mentre Lucy stava per diventare sua parrocchiana. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.